Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, avete sentito il tema Svizzera oggi in testa all'agenda europea. Noi ci colleghiamo subito con Bruxelles, corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Beda. Dunque, quali potrebbero essere le conseguenze di questo referendum? Ma questo referendum imporrà al governo svizzero di rinegoziare un trattato di libera circolazione delle persone, negoziato a suo tempo con l'Unione Europea, entrato in vigore nel 2002, e lo dovrà fare perché inevitabilmente il referendum chiede al governo svizzero di introdurre limiti all'immigrazione. Quindi questo trattato internazionale con l'Unione Europea dovrà essere rivisto, e la cosa interessante è che dovranno essere probabilmente rivisti altri accordi non legati all'immigrazione, ma che furono a suo tempo negoziati insieme a quello sulla libera circolazione delle persone e che riguardano anche per esempio l'import-export di prodotti. Questi trattati sono in tutto sei, piuttosto tecnici, dovranno essere rinegoziati perché all'interno di ciascuno di questi trattati è stata inserita una clausola di diritto internazionale che prevede l'obbligo di rinegoziare il trattato specifico se altri associati a questo trattato fossero messi in discussione. Quindi da un punto di vista giuridico si apre una matassa abbastanza impegnativa sia per la Svizzera che per l'Unione Europea. Ecco, e poi c'è il fronte politico. A maggio il voto. In che modo, a tuo avviso, questo referendum può diventare uno strumento nelle mani dei populisti? Non poteva accadere in un momento peggiore, in un certo senso, questo referendum svizzero che, come dicevo prima, imporrà alla Svizzera di rivedere la propria politica dell'immigrazione. Non poteva accadere in un momento peggiore perché in maggio si vota per il rinnovo del Parlamento europeo e ci sono in molti paesi europei partiti radicali che stanno facendo campagna contro l'immigrazione. In alcuni paesi, come per esempio la Gran Bretagna, la campagna non è dei partiti radicali quanto anche del governo Cameron, che ha posto il problema della libera circolazione in Europa. Quindi il referendum svizzero e soprattutto l'esito del referendum svizzero complicherà la vita dei 28 paesi dell'Unione, alcuni dei quali oggi hanno già preso posizione. Se oggi la Francia e altri paesi hanno insistito sul fatto che la libera circolazione delle persone è un aspetto cruciale dell'Unione Europea, è perché vogliono cercare, per così dire, di tenere a distanza le pressioni dei partiti radicali che vogliono cavalcare l'esito del referendum svizzero a proprio fine interno. Insomma, una decisione che, le ricordo, è stata presa con il 50,3% dei voti, quindi una maggioranza strettissima che, come ci spiegava Beda Romano, cade in un momento che non poteva essere più delicato. Prima di salutarci chiedo una battuta al corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles sulla questione Marò. L'Italia fa spesso riferimento in queste ore alla solidarietà europea, ma il tema è in agenda a Bruxelles? Allora, il tema è ufficialmente in agenda a Bruxelles. Certo, l'Italia probabilmente, come ha fatto all'ultimo Consiglio degli Affari Esteri in gennaio, probabilmente ne parlerà durante la riunione, cercherà di avere da parte dell'Europa una posizione condivisa e soprattutto una posizione forte. È ancora molto difficile capire quanto l'Europa possa realmente fare per appoggiare concretamente l'Italia in questo frangente. Grazie a Beda Romano in diretta da Bruxelles. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore nella capitale belga, soprattutto per quanto ci riguarda nella capitale operativa amministrativa dell'Unione Europea. Ancora una notizia che di fatto ci porta sempre sui temi internazionali dei rapporti dell'Unione Europea con gli altri stati. La Bosnia, che in questi giorni è stata segnata da violentissime proteste legate a una crisi economica profonda, bene, in Bosnia adesso i leader del paese hanno l'occasione non solo di risolvere i problemi economici ma anche quelli politici. Così ha detto questa mattina il capo della diplomazia UE, Catherine Ashton, entrando appunto al Consiglio Esteri a Bruxelles. L'invio di ulteriori truppe rappresenta ora una situazione ipotetica, quindi non esclusa per l'Ashton. La cosa importante importante è che la leadership della Bosnia consideri le reali preoccupazioni della gente. Bene, con questo è tutto. La linea ai nostri colleghi dello sport. Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.